siamo diventati ciechi. Io sorrido, tu sorridi, contagiamoci con il sorriso. Non ricordavo di avere un prato di fiori, ma son di avere un libro come letto. Prendo un treno a colazione, ma quel treno non passerà più. Allora me ne vado sul balcone a guardare le stelle, a scrivere sulle finestre appannate, a disegnare la pace, mentre un metal star mi buca l'occhio sinistro. Se il silenzio è fatto per pregare, mettiamoci ad urlare. Passava l'inverno e la neve inghiottiva i treni della metropolitana. Tu mi regalavi i tuoi sogni, un miliardo di lettere. Alla stazione oggi non ti ho vista, passeggiavi con gli occhi bassi. Prima o poi ci ritornerò, ma non te lo dirò. Prima o poi ci ritornerò, prima o poi ci ritornerò, ma non te lo dirò. Non voglio vedere più treni e stazioni o viaggiatori che si incrociano con i loro respiri, perché poi mi mancheresti e non ho le ali per portarti lontano. C'è un vento gelido, portami a ballare o a guardare i marinai nuotare. Tu ti guardi, io mi guardo, tu mi guardi, io ti guardo. Oggi non ti ho vista, passeggiami con gli occhi bassi. Prima o poi ci ritornerò, prima o poi ci ritornerò, prima o poi ci ritornerò, prima o poi ci ritornerò, ma non te lo dirò. Rimane così, magari un po' perplessi, su treni fuori orario.